Bene, ciao a tutti e tutte, benvenuti. Allora, perché oggi volevamo presentare il progetto LEAF, che serve per Local Empowerment for Agroforestry, che io e Mattia dall'anno scorso più o meno abbiamo iniziato, dopo prima un po' di chiacchiere, poi andando sempre più dentro la cosa, abbiamo iniziato a sviluppare, che è un progetto di cooperazione internazionale di sviluppo rurale che vorremmo andare a fare in Sierra Leone. E quindi questo, diciamo, è il contesto dell'evento di oggi. E, vorrei solo giusto introdurre brevemente chi siamo, cioè con l'organizzazione con cui stiamo andando a fare questo lavoro, questo progetto, che sarebbe Develo. E poi, quindi rubo giusto 2 minuti per questa introduzione e poi ascolteremo il racconto di Mattia, che è stato là, ha fatto il viaggio, come sappiamo. E, allora, Develo è un'organizzazione che nasce nel 2013 presso la Facoltà di Scienze Agrarie e proprio un'organizzazione con lo scopo e la finalità di cooperazione internazionale più nel campo universitario, quindi cooperazione interuniversitaria, ovvero è il tentativo da parte di alcuni studenti di voler contribuire e partecipare e fare esperienza quindi anche nei progetti di cooperazione interuniversitaria fra la Facoltà di Scienze Agrarie di Milano e varie altre facoltà. Quindi si è partecipato a diversi progetti in Africa e anche nei Caraibi, ad Haiti, dove Develo ha dato il suo contributo come poteva. Su questi progetti di cooperazione ad Haiti riguardavano uno studio sulla aflatossine, che è una sostanza molto tossica presente in alcuni cereali e prodotti alimentari, quali anche il mais. Mentre in Africa abbiamo lavorato con i microjardin, che sono delle tecniche molto semplici per farsi dei mini orti in casa, sostanzialmente, in città, appunto, immaginate molto affollate, molto caotiche, dove la terra ovviamente non ce n'è e quindi si pongono diversi problemi. Questa è un po' l'attività di Develo. Ora, con l'intervento di Mattia, insomma, tutto il progetto si sta sviluppando. Il carattere, sarà un po' meno interuniversitario, nel senso che ci stiamo in realtà interfacciando con organizzazioni locali, ovvero un'associazione locale, si chiama PRIDO, che starebbe per Partners in Rural Development Integration Organization, nomi assurdi, e con loro stiamo sviluppando, che è un'associazione proprio locale che fa questo lavoro di sviluppo, di supporto alle comunità localmente. Quindi vi ringrazio per essere venuti, direi l'introduzione meno male a questo di cos'è Develo e che cosa ha fatto. Develo è stata già anche in Sierra Leone tempo fa, cercando di sostenere l'Università di Makeni, dove c'è una facoltà di scienze agrarie, che poi però magari ce lo racconta meglio Mattia, che è stato conosciuto, e mi sa che è sfumata poi un po'. Che è un po' il problema della cooperazione di questi progetti, insomma, sono cose difficili che spesso fanno fatica poi anche ad attecchire, ma magari poi potrebbe nascere un dibattito dopo di cui parlare. Comunque adesso dai, passerei. Vabbè, intanto mi unisco ai ringraziamenti per voi che siete venuti qua e anche e soprattutto per i ragazzi e le ragazze d'Exage per averci concesso lo spazio per questa presentazione qua e anche a Develo in realtà, perché comunque io sono appena arrivato dentro questa associazione qua e all'interno delle quali ho trovato persone che si sbattono veramente da tanto tempo. In generale, due parole bisognerebbe dirle sul fatto che comunque è utile appoggiare e sarebbe, diciamo, cosa buona appoggiare questo tipo di associazionismo, e ormai noi siamo tutte persone grandi e un po' navigate in questo ambito, però in generale ci sono tantissime associazioni a Milano, soprattutto una rete di associazioni, piccolo associazionismo dal basso, che fa veramente fatica a crescere, a portare avanti le loro attività e si interfaccia tutti i giorni con una burocrazia snervante, dei costi proibitivi, e sono soprattutto ragazzi che fanno fatica a portare avanti questi progetti, quindi se vi capita in generale questo è un invito che bisognerebbe sempre fare. Il progetto LEAF nasce appunto da tre persone, principalmente io, lui e John, un altro ragazzo, noi tre ci conosciamo da un po' di tempo, abbiamo iniziato più che altro a mettere insieme quelle che erano le nostre competenze nella comunicazione, competenze nella progettazione o competenze proprio tecniche per quanto riguarda l'agroforestazione e l'agroecologia in generale. e abbiamo cercato di capire come poter sviluppare un progetto di cooperazione internazionale. Banalmente c'è un po' piombato addosso, perché siamo stati contattati appunto da Prido, questa associazione che fa sede a Makeni, quindi nella provincia di Bombay, al Sierra Leone, che appunto è un'organizzazione che porta avanti da tempo delle attività di agricole, si può dire, di supporto sostegno, agricolo, di sostegno alle comunità agricole. Educazione ambientale. Esatto, per fare in modo che queste comunità rurali dell'entroterra Sierra Leonese possano, diciamo, raggiungere un certo tipo di sicurezza alimentare in tutto l'anno, più che altro, perché parliamo comunque di realtà tra le più povere al mondo. Quindi niente, noi abbiamo risposto a questa chiamata da parte di questa associazione qua, e dopo qualche riunione, qualche meeting, anche un po' confuso, diciamo, perché comunque stiamo interfacciando con delle persone che non hanno sempre disponibilità di banalmente una connessione internet, eccetera. Abbiamo deciso di partire per questa missione preliminare in Sierra Leone. Allora, lo scopo della missione preliminare era raccogliere un certo tipo, capire intanto con quale realtà stavamo andando a interfacciarci. Noi avevamo un'idea, ovviamente, però chiaramente sappiamo quali idee, grazie anche alle competenze tecniche di Vicky e di altri operatori che hanno delle competenze tecniche proprio agroecologiche, sono certe attività che si possono fare per sostenere le comunità rurali, però non sai mai in che contesto stai andando a metterti, insomma, bisogna essere anche molto delicati in questi casi. Quindi il senso di questa missione preliminare è appunto fare un'analisi di questo contesto, per poi capire anche cosa serve effettivamente a queste comunità, ok? E soprattutto in un'ottica non da arrivare a insegnare alle persone quali tecniche adottare. Noi diciamo spesso che l'idea è quella di non insegnare alle persone la metafora del pescatore: non si insegna alle persone a pescare, non si pesca per loro ma si pesca con loro, quindi è utile intanto stabilire con che ottica, con quale approccio andare a interfacciarti con delle comunità che comunque hanno subito anche seguito il colonialismo e che subiscono ancora adesso delle pratiche, diciamo, impattanti per quanto riguarda sia il loro sistema sociale che il loro sistema ambientale. Tant'è che parlo anche io personalmente, come sono andato io effettivamente in Sierra Leone, quello che mi sono trovato davanti è stato un quadro molto diverso da quello che ci aspettavamo. La Sierra Leone comunque è nella top 10 dei paesi più poveri del pianeta, è anche considerato uno dei paesi più poveri dell'Africa, per cui capite un po' che la realtà, una volta che ti ci metti, è abbastanza appunto impattante. Qua abbiamo anche altre persone che lavorano in Sierra Leone, magari poi ci possono portare il loro contributo. Quello che abbiamo fatto è fare dei questionari, possiamo entrare un po' anche un po' più nello specifico. Noi ci siamo preparati dei questionari qua in Italia per capire un po' come era strutturata sia la Sierra Leone in senso generale che nello specifico le comunità rurali. Faccio una breve sintesi di quello che è il contesto della Sierra Leone come paese, nel caso voi non lo sapeste. La Sierra Leone viene da due secoli di colonialismo britannico, che è finito a metà del secolo scorso, e la Sierra Leone, come molti dei paesi africani, è un paese ricco di risorse naturali, soprattutto per quanto riguarda i metalli preziosi e soprattutto per quanto riguarda il legname, che ancora oggi è una delle attività estrattive che più vanno di moda, insomma, in Sierra Leone. Il colonialismo britannico ha impattato tantissimo sull'ambiente, sia dal punto di vista della deforestazione, ma anche dell'inquinamento dei corsi d'acqua per poter estrarre metalli preziosi. hanno comunque negli anni 50 la Sierra Leone era un paese giovanissimo perché aveva appena riuscito a raggiungere l'indipendenza, eppure con un'economia già devastata e che non aveva i mezzi per sostenersi e per intraprendere un percorso di crescita. Dopodiché, come molti sanno, la Sierra Leone è andata incontro a un futuro di guerra civile tra le peggiori che si siano mai state in Africa, una guerra civile che è durata 15 anni dalla fine degli anni 80 in poi, che tra l'altro si è trasformata in una guerra che ha preso le proporzioni di una guerra globale a tutti gli effetti. Due parole su questa guerra civile. Praticamente, tra l'altro, tante persone ancora oggi in Sierra Leone sono convinte del fatto che la guerra civile, cioè i ribelli che sono ribellati al governo, hanno fatto bene, insomma, perché il governo era un governo, come spesso accade nei paesi giovani in Africa, un governo molto corrotto in cui non esiste tipo l'alternanza, non esistono elezioni democratiche e soprattutto le zone magari più rurali, più continentali vengono un po' lasciate a se stesse. Quindi un gruppo di ribelli si è sollevato contro il governo e cosa ha fatto? Ha trovato l'appoggio, trovandosi appunto di fronte a un governo democraticamente eletto, cioè per quello che era a livello formale, e quindi godeva anche dell'appoggio delle Nazioni Unite, banalmente quindi di tutti i paesi europei e degli Stati Uniti, per poter far fronte a questo. A questa minaccia cosa ha fatto? Si è appoggiata alla Libia, in particolare la Liberia, la Libia di Gheddafi per essere chiari. La Libia di Gheddafi e la Liberia che cosa hanno chiesto in cambio per poter entrare in conflitto? I metalli preziosi, i diamanti in particolare. Quindi i ribelli cosa hanno fatto? Da che erano spinti da buone intenzioni, hanno iniziato a schiavizzare con metodi più o meno atroci, ma in generale i mutilati ancora si vedono dappertutto in tutte le strade della Sierra Leone, a schiavizzare le persone, soprattutto i bambini, perché per raccogliere i metalli preziosi ci vogliono mani piccole, e quindi da lì l'escalation è stata sempre peggiore, si può dire, finché alla fine i ribelli sono stati, diciamo, sconfitti, perché chiaramente il governo godeva appunto dell'appoggio delle potenze occidentali, anche del Sudafrica, che comunque in Africa diciamo che è una potenza militare molto rilevante, e quindi alla fine questa guerra ha lasciato dietro di sé soltanto tantissimi morti e soprattutto un'economia che, se già era arretrata, l'ha spostata indietro di altri 20 anni più o meno. Queste sono più o meno le stime. Liberatasi di questa guerra, di cui ancora si vedono gli effetti, perché banalmente i governi ancora investono molto nelle spese militari, mandano in giro i miliziani, si vedono per le strade, proprio esercito, perché comunque temono comunque altri sollevamenti, perché il governo ancora ha grossi problemi di corruzione. Un numero di vedove allucinanti, con la struttura familiare che hanno lì, quindi con tanti figli, fanno una struttura tribale, diciamo anche. Ci sono molte famiglie sono religiose, quindi comunque le famiglie sono numerose e le vedove devono occuparsi di tanti di una famiglia allargata in generale. La situazione era drammatica, finché poi non sono arrivate l'epidemia di Ebola e la pandemia di Covid. Quindi potete capire che la Sierra Leone sicuramente non è uno degli stati più fortunati del pianeta. L'Ebola è stata devastante in generale, anche le misure che sono state adottate per contenere l'Ebola prima e il Covid poi hanno impattato tantissimo nella popolazione, perché non potendosi spostare, già era difficile raggiungere alcune parti dei territori, in più non si potevano più spostare per esempio gli ufficiali governativi per controllare le attività illegali, quindi le attività illegali hanno prosperato negli anni durante l'epidemia prima e la pandemia dopo. C'era poco controllo, le persone nei villaggi rurali fanno fatica a raggiungere banalmente anche i mercati, a raggiungere gli agrodealer, chi gli dà i semi, quindi è difficile anche per loro autodeterminarsi a livello proprio di mercato, e in più anche all'interno delle comunità attività come l'attività agricola delle donne, che si occupano banalmente di tutta l'attività agricola, dalla semina al raccolto, gli uomini le fanno soltanto i primissimi lavori manuali, un po' di, come si dice in questi casi, in cui serve prestanza fisica, però poi le donne si occupano di tutto e spesso lavorano in queste sanitarie, non potevano più lavorare in gruppi, quindi si riduceva appunto gli spazi che potevano lavorare, si riduceva chiaramente la produzione e quindi aumentava proprio la povertà. Chiaramente questa è un po' la situazione della Sierra Leone generale, quella in cui mi sono trovato quando sono arrivato lì, unita chiaramente a tutto quello che sono le conseguenze di anni di colonialismo prima e di neocolonialismo adesso, perché ci sono tantissime multinazionali straniere che approfittano anche del fatto che magari il governo è un po' più debole, corruttibile, ci sono pochi controlli, ci sono tante vaste aree in cui non esistono proprio controlli, in cui non vedeva un uomo bianco da 20 anni. A me mi hanno detto alcuni capi villaggio che non vedevano veramente una persona bianca da decenni, possono fare un po' quello che vogliono, detto in poche parole. Parlo soprattutto di aziende che deforestano, in particolare cinesi e vietnamite, ho scoperto che sono per la maggioranza cinesi, ma anche in parte vietnamite, che di notte appunto percorrono la savana con carovane di camion, deforestando tutto. Questo qua, chiaramente, parlando anche con ufficiali del Ministero dell'Agricoltura, è una roba che è incontrollabile, banalmente. E anche io credo che, anche se fosse controllabile, un governo in queste condizioni economiche e finanziarie che punta alla crescita forse scenderebbe a patti anche con queste multinazionali per poterci guadagnare qualcosa, non capendo che magari invece ci perde dal punto di vista dell'impatto ambientale e ecologico. Questa è un po' la situazione generale. La situazione invece un po' più nello specifico delle comunità. Noi abbiamo, io ho trascorso appunto una decina di giorni nelle comunità rurali, nella provincia di Carene, nel distretto di Carene, che ha circa 2 ore, 3 ore di macchina. Considerate che non esistono le strade, per cui al di fuori della città, di due città più importanti che sono Freetown e quella del sud, che non mi ricordo, ma c'è stata Cecilia, poi magari ce lo dice lei. Non esiste proprio l'infrastruttura. A livello infrastrutturale la storia della Sierra Leone è molto indietro anche rispetto a Senegal, al Ghana, banalmente, molto indietro. E quindi è difficile anche spostarsi. Io sono stato appunto nei villaggi rurali a 3 ore da Makeni. Makeni è una città provinciale, molto piccola, però con un sacco di vita. C'è un mercato molto importante per tutta la regione, è una regione vastissima. Io sono stato a circa 2-3 ore da lì, dove ci sono proprio dei villaggi in cui non mancano, solo per renderci conto, a Makeni mancano i servizi primari, nel senso che l'elettricità c'è magari per 3-4 ore al giorno, l'acqua anche, e invece dove siamo stati noi, nei villaggi dove siamo stati noi, non c'è proprio mai, non esiste elettricità, esiste un posto dove puoi lasciare il telefono e dopo 3 giorni te lo danno carico al 50%. O meno. Chiaramente l'acqua corrente non esiste, eccetera. Questi villaggi qua dove sono stato, sono stati indicati da Prido, da questa associazione qua, perché sono i villaggi in cui Prido già ha sviluppato delle attività che mirano appunto a far raggiungere questi villaggi una sicurezza, una sovranità alimentare lungo tutto l'anno. In particolare noi ci siamo concentrati su 3 villaggi, il villaggio di Malachiabana, Baka e Tobu. Sono 3 villaggi rurali tribali in cui vige un sistema patriarcale, tribale, si parla di più o meno 50-60 famiglie a villaggio, in cui esiste un capovillaggio che tra l'altro non ha soltanto una funzione tribale ma anche riconosciuto dal governo a livello ufficiale, anche se poi il governo di fatto non mette le mani in quelle che sono le questioni organizzative comunitarie. Questo capovillaggio crea una commissione in cui all'interno mette per esempio il leader youth, il leader dei giovani, la chief lady, la leader delle donne, il teacher, il maestro, perché lì è importante comunque anche soltanto conoscere l'inglese, perché se la Sierra Leone in generale si parla inglese chiaramente con tutte le sfumature dialettali delle africane. In questi villaggi chiaramente ci sono tutta una serie di uomini, tradizionali, si può dire. E quindi appunto questo capo villaggio si attorna di queste persone qua e porta avanti le attività in maniera regolare, senza da decenni, probabilmente da secoli addirittura. E questi villaggi vivono di agricoltura, hanno una vastità enorme di prodotti che coltivano in piccolissime proporzioni. Quindi se parliamo di fagioli, io sono andato lì perché noi avevamo appunto questi questionari per chiedere appunto quali tipi di prodotti coltivavano, loro dicevano fagioli, poi si può andare a controllare, i fagioli erano un metro tutto il villaggio, quindi diciamo che all'interno del villaggio vige un'economia di sussistenza, comunque tutto quello che si coltiva viene consumato all'interno del villaggio. È anche in vigore un regime di exchange interno, non usano le banconote, non usano la moneta perché non hanno bisogno banalmente, cioè se tu coltivi soltanto per te stesso, per il tuo villaggio, e sviluppi all'interno del villaggio, della comunità, un sistema molto più simile al baratto che allo scambio di mercato. E quindi questa è un po' la situazione. Loro al momento i loro principali problemi sono l'accesso all'acqua e l'accesso ai semi. L'accesso all'acqua noi ci aspettavamo abbastanza, loro hanno due stagioni, la stagione secca e la stagione delle piogge, e in genere loro coltivano appunto due parti di terreno in modo da poter sopperire quando durante la stagione delle piogge non si può coltivare la lowland, possono andare in upland, però fa molto caldo, quindi non possono accedere all'acqua se non a quella piovana, per cui in generale hanno queste pozze in cui l'acqua chiaramente non è filtrata, in cui si lavano, insomma le condizioni sanitarie sono pessime, ma anche quelle proprio di produzione sono pessime. Hanno degli strumenti, come dicevamo, tradizionali, anche un sistema che non vede rotazione, che sfavorisce anche appunto un buon utilizzo del terreno, un buon utilizzo dei semi, perché i semi sono utilizzati in un modo giusto poi perdono le loro proprietà, eccetera. L'altro grosso problema è l'accesso ai semi. Questa è una cosa molto interessante. Loro, non avendo chiaramente una potenza economica all'interno delle comunità, cosa fanno per avere i semi da coltivare? Il capo villaggio si fa è garante di tutto il villaggio e va da il grande coltivatore, possiamo dire quello che noi chiameremo oggi il landlord, okay? Un grande coltivatore, un latifondista, e praticamente noleggiano i semi da questo latifondista. Noleggiando questi semi dal latifondista, si mettono in un sistema contrattuale che li sfavorisce altamente, perché loro poi devono rendere il 60% di quello che hanno prodotto al latifondista, che già comunque rappresenta la ricchezza in un paese che ha l'80% di agricoltura. Sì, cioè, il latifondista coltiva a livello industriale con macchinari grossi? Sì, spesso non è neanche locale, non è della Sierra Leone, in genere alle spalle ci sono delle multinazionali. Non soltanto coltiva a livello industriale, controlla anche i mercati, si occupa anche del trasporto ai diversi mercati e fa anche una cosa pessima, che è nei mercati, quelli un po' più popolari, diciamo, come quello di Makeni, manda in giro degli operatori a comprare quante più semi possibile per poi rivenderle a prezzo maggiorato. Questo mi è stato confermato anche da chi gestisce il mercato di Makeni. E non è della Sierra Leone? Allora, magari formalmente sì, ma alle spalle comunque ci sono sempre delle multinazionali. Allora, la questione delle femmine è molto complicata, ci vorrebbe un reportage soltanto per approfondirla, perché esistono anche delle figure chiamate agro dealer, che tra l'altro scorrendo, questo qua è un tipico negozio di un agro dealer. Come vedete, un villaggio di 400 persone non può vivere con quattro scatolette di semi. In generale questi agro dealer poi sono anche stati molto sfavoriti dal fatto che con la pandemia e non hanno potuto più muoversi, quindi non possono neanche raggiungere i villaggi, non possono andare nei villaggi. I villaggi sono magari a 20 km dalla cittadina più grande vicina e non arrivano a raggiungere proprio l'agrodealer. Quindi l'agrodealer è una figura, diciamo, che non ha peso da questo punto di vista qua. Loro sono costretti ad andare da questi qua che hanno i mezzi per raggiungere i villaggi e per dare quindi i semi alle comunità, a fronte di un ricatto enorme, assurdo, il 60% per una popolazione come quella di 400 di Malachia Habana, per esempio, è una cosa assurda. Tant'è che li mette anche, cioè li fa proprio perdere, nel senso non riescono neanche ad arrivare a coprire tutta la sussistenza di cui hanno bisogno, tant'è che quando sono andato io stavano comprando i chili di riso importati cinesi al prezzo quanto noi li prendiamo al Carrefour, veramente. Considerate che la Sierra Leone ha un PIL pro capite di $500 all'anno, noi abbiamo 34.000, per cui chiaramente è una cosa che non possono affrontare. 50 kg di riso importato, tra l'altro loro vivono anche di, soprattutto di riso, per cui questo vi fa capire quanto poca forza hanno e soprattutto quanto gli manca per raggiungere anche un'economia che li faccia uscire anche da quella di sussistenza per immettersi in un tipo di mercato che non deve essere per forza globale, banalmente locale. E quindi questa è più o meno la situazione delle comunità rurali in cui noi stiamo andando a fare questo tipo di attività. Prido, finalmente, finora, che è il nostro partner in loco, si occupa soprattutto di suggerirgli quali tipo di tecniche adottare. Prido comunque consideriamo che non ha accesso alle tecniche che abbiamo accesso noi in Europa, comunque per quanto possa suggerirgli in che mese coltivare, che cosa coltivare, non può fare più di tanto. E soprattutto Prido è un'organizzazione di giovani, una decina di giovani che anche lì vive di un po' di quello che riesce a ricavare dai vari sussidi, dalle varie sovvenzioni che soprattutto l'UNDP, che è l'ufficio dell'ONU in Sierra Leone, riesce a erogare, però si tratta di poca roba. Costano tantissimo i trasporti in Sierra Leone, difficilissimo muoversi. Quindi più o meno questa, diciamo che è la situazione un po' più nello specifico dei villaggi, sì, dei tre villaggi in cui noi stiamo andando a immetterci. Io vi risparmio tutta chiaramente il loro stupore nel vedere un ragazzo bianco, biondo tra l'altro, da loro, eccetera. Noi quello che stiamo facendo in questo momento come Develo, siamo in contatto appunto tramite Prido con l'ufficio delle UNDP. Io quando ero lì avevo già fissato una serie di interviste, tra le quali c'era anche quella con Mr. Sanno, che è il responsabile dell'ufficio della Sierra Leone dell'UNDP, che è con i progetti di Small Grant dell'ONU. Sono i piccoli, come si possono definire, i piccoli progetti, microfinanziamenti che l'ONU elargisce per attività agricole in Sierra Leone, eccetera. Quindi noi adesso stiamo cercando di accedere a questi fondi qua, intanto per supportare Prido, e poi andremo a fare un certo tipo di attività che vanno dai training classici per appunto condividere con loro le tecniche che secondo noi possono essere funzionali e utili a loro. Come dicevamo prima, noi vogliamo, il nostro approccio non è un approccio coloniale, nel senso non stiamo andando a insegnare a nessuno come si fa, in generale con una cultura molto diversa, anche molto orgogliosa giustamente di quelle che sono le sue radici. È sempre giusto avere un approccio delicato, un approccio collaborativo e un approccio molto orizzontale, ok? Un approccio che non arrivi dall'alto, nessuno va lì a dire ti devi fare così perché siamo noi più bravi europei, diciamo che si fa così. Non andiamo lì per farlo per loro, assolutamente no, noi andiamo lì per fare le cose con loro, tant'è che anche Prido fa un po' questo anche all'interno della Sierra Leone. Loro li mettono, vanno nei villaggi rurali, mettono davanti una parte di terreno, un field coltivato da loro, e dicono ok, voi continuate a farlo come fate voi di solito, di fianco ne facciamo uno con un'altra tecnica che vi proponiamo noi e vediamo quali sono i frutti migliori, e poi insieme cerchiamo di ragionare su come sviluppare la soluzione migliore. Quindi questo è un po' l'approccio che vogliamo adottare noi. Per farlo appunto avremo bisogno chiaramente di operatori come Ricky, come persone che comunque sono skillate nell'ambito dell'agroecologia, dell'agroforestazione, che stiano lì tempo, mesi, perché si tratta di fare dei training, si tratta di poi farli vedere nella pratica quello che è il frutto del training, e anche di capire come sfruttare al meglio delle dinamiche per raggiungere meglio i mercati, per sviluppare insomma quegli strumenti che servono per affacciarsi al mondo, insomma, perché lì veramente si parla di persone che comunque non hanno proprio modo di di uscire da una dinamica molto locale. E, ok, poi sì, direi che questo è più o meno tutto. Noi ci tengo a dire due cose, giusto una cosa in conclusione. Noi quello che abbiamo visto in particolare sono, oltre alla questione dei semi, il ricatto che loro subiscono, la questione delle donne lì si sente molto forte, si percepisce, con me avevano problemi anche a guardarmi negli occhi, e molte di loro erano le persone con cui io volevo interfacciarmi, perché noi avevamo fatto dei questionari rivolti alle persone che coltivano, che sono le donne che coltivano, le donne si occupano quasi tutto nel villaggio, dalla cura dei figli alla cura della terra. E secoli di mancanza di accesso alla scolarizzazione, decenni, e in generale di emarginazione in un contesto molto domestico, hanno creato comunque delle donne che adesso fanno fatica anche a autodeterminarsi in quanto tali, a autodeterminarsi in quanto lavoratrici banalmente. E, quindi questa è una questione che sicuramente è molto importante, anche perché le donne sono spesso persone come noi che si occupano anche, si occupano tanto tempo di dinamiche come i flussi migratori. Le donne sono spesso le prime vittime, le persone che per prime subiscono certe dinamiche. Come dicevo prima, la guerra ha svantaggiato moltissimo le donne che non sono riuscite ad accedere ai sussidi che ha messo in campo lo Stato, nonostante fossero rimaste tutte vedove, e le restrizioni hanno minato il loro lavoro, e quindi questa è una questione che ci sta, l'empowerment femminile è una cosa sicuramente che andremo a toccare insieme a Prido e insieme alle donne di Prido, che hanno anche un'esperienza decennale nell'approccio alle donne delle comunità rurali. La questione dei semi è una questione molto molto delicata, perché chiaramente ci sono anche delle cose difficili, cioè è difficile entrare in un racket, cioè anche io seguendo i camion dentro il mercato, dopo un po' il mio accompagnatore mi ha detto meglio di no, lasciamo stare adesso, ne parliamo un po' più in là, perché comunque alle spalle ci sono realtà che hanno fatto il bello e brutto cattivo tempo per decenni senza controllo in Sierra Leone. C'è anche la questione della deforestazione, quella lì è una questione cruciale. Quando io, appunto, prima si citava l'università di Makeni, l'università di Makeni è un'università cattolica privata, e noi avevamo un contatto grazie all'attività di Prido, di Develo, che aveva già svolto, che aveva sovvenzionato il percorso di studi di una ragazza in Sierra Leone, quindi avevamo un contatto che io ho incontrato, padre Paganelli, ed è stato un incontro molto surreale, direi, perché lui era molto, Pietro ride perché lo conosce, è un personaggio dalla grandissima esperienza, è difficile perché anche non è un cardinale, è il bishop dell'università, è il sovrintendente, come dire, tipo una figura un po' da un religioso. Da Signore degli Anelli. Sì, chiaramente è un religioso di grande, io non sono mega esperto in queste cose qua, però è una persona di grande spessore all'interno della comunità religiosa, e in generale comunque è il prete dell'università, in poche parole, ed è anche riferimento religioso per tutta la comunità. Comunque è uno che è stato 18 anni in Messico, cioè in Chiapas, è una persona che ne sa, una persona che ha saputo interfacciarsi con delle realtà veramente toste lungo la sua vita, e lui quando mi ha visto, io ero con Joe, il presidente di Prido, mi ha detto io parlo solo con te, io chiaramente ho forzato, poi siamo riusciti a parlarci entrambi, però non voleva parlare, lui pensava che io volessi parlare dell'Italia, io ho detto ma come, non vengo fin qua per parlare dell'Italia, cioè mi è sembrata una cosa un po' strana. E lui mi ha detto, proprio la prima frase che mi ha detto, ragazzi tutto bello, bellissimo, lo dovete fare, ma sappiate che non serve a niente. Non serve a un cazzo, perché finché qua non si risolve il problema della deforestazione legato al problema della corruzione del governo, è impossibile fare qualsiasi cosa. Siete semplicemente qualcosa che va a tamponare un problema che non si risolverà mai. Questo per darvi un po' il polso di quello che è, di quanto impatta la deforestazione in paesi come la Sierra Leone, è impattata da secoli, dalla colonialismo britannico. E quindi basta, credo di aver fatto un quadro abbastanza tragico della situazione, non vorrei andare oltre, anche perché comunque questo vuole essere anche un momento di... Sì, prego. Ma chi è che si occupa della scolarizzazione, dell'educazione? Allora, ci sono delle missioni cattoliche, e in generale si sono occupate soltanto le missioni cattoliche nel pianto. Chiaramente anche le missioni... C'è qualcosa a livello di governo? No, allora... nelle città sì, allora lì è molto più netta la divisione tra, non dobbiamo considerare la città Milano, la provincia Verona e il villaggio, che ne so, Marola, per dire, per, dico tre che conosco, però per dire, lì è molto diverso, la città è Freetown e si svolge tutto all'interno di Freetown, la città di provincia è una città già in cui non c'è niente, ed è difficile, lo Stato non riesce ad arrivare lì. Ok? Il villaggio è proprio un posto in cui magari gli ufficiali del governo non sono mai stati, non esiste lo Stato, non esiste controllo, non esiste catasto, non esiste nulla, non esiste infrastruttura, non esiste assolutamente nulla. I missionari cattolici sono arrivati in decenni, hanno avuto un grande merito di fare il poco che si è fatto, l'hanno fatto loro, effettivamente, ovviamente hanno trovato le difficoltà che trovano tutti. Io sapevo, quando c'ero io, sapevo che all'interno delle carinelliste c'erano due preti filippini in una area vasta come il Veneto e il Friuli. Capite che è difficile in generale. Quindi la scolarizzazione è un grosso problema, chiaramente. Ma io credo che lo Stato non possa... Allora, lo Stato spende tantissime spese militari, un po' per quello che dicevo, perché è un po' sempre un posto di punto di allarmarsi per quello che è stata la guerra civile, e un po' perché spendendo in spese militari mi è stato fatto capire che possono intascare più mazzette, nel senso che è una delle vie in cui si rende più corruttibile, ok? Dichiara di aver speso tot in spese militari, quando in realtà è giustificato, perché tutti quanti, dopo la guerra civile, tutto viene giustificato per l'esercito, però in realtà poi se... Quindi tanti soldi vanno lì, diciamo. E basta. Il governo si sente nelle città o nelle fuori speculazione? Sì, fuori non c'è. Io ho incontrato appunto un ufficiale del Ministero dell'Agricoltura quando ero nel villaggio a Carene, e a parte che ci ha messo 3 giorni ad arrivare, quindi non voglio neanche sapere dove fosse, un ragazzo bravissimo che mi ha semplicemente fatto capire, poi comunque uscirà anche un reportage appena qualcuno mi concede l'intervista, era una frecciatina che ci sia e comunque fanno fatica veramente a controllare, non hanno i mezzi nuovi, non hanno le persone, il Covid li ha proprio stroncate le gambe, perché con le restrizioni loro non potevano andare neanche dal villaggio in villaggio, gli stessi ufficiali per controllare, e quindi è tutto così. Ci sono delle leggi che cercano di limitare la deforestazione, una legge che dice che ogni albero devi coltivarne, devi piantarne 5, però capisci che cioè, io ho visto di notte, alle 2 di notte, nel buio totale, perché non c'era l'elettricità, fuori dalla porta del posto dove dormivo, mezz'ora di camion giganti cinesi che si trasportavano, giganti, trasportavano tronchi, mezz'ora, così, nel mezzo della savana, capite? Non c'è modo di limitarli, è veramente difficile. Anche perché loro non hanno proprio il mindset, loro non capiscono, non capiscono che questo quanto stiamo facendo. Questo è anche un tema che bisognerebbe parlare per esempio, perché loro vivono nella plastica. Quando dici loro, chi sono? Le persone dei villaggi rurali. Loro vivono per esempio nella plastica, è come se non se ne accorgessero, la savana è ricoperta di plastica, non hanno sistemi di raccolta di plastica. Bevono una roba e la buttano per terra, dove ci sono le capre. Sembra che non abbiano proprio la percezione. Questo è il sentimento che provi quando li vedi, no? Dici, ragazzi, ve la butto, te lo do io. In mezzo alla savana, bellissima. oltre ignoranza, vorrei, non è più che ignoranza, non ci sono i servizi di smaltimento, no? Non ci sono le discariche, non quindi modo di farlo, esatto. non c'è un'alternativa, cosa fai? Riunisci? Esatto, non c'è proprio il concetto. No, tra l'altro non è che ci siamo arrivati da tanto. Esatto. No, poi secondo me, adesso questa è una mia suggestione in realtà. Allora, l'Africa spesso paesi dell'Africa, io ho visto smartphone venduti nei mercati a 10, a quelli che corrispondivano a 10 euro. I famosi smartphone con cui sbarcano i migranti in Italia non sono smartphone come li intendiamo noi. Sono smartphone che loro pagano 400 leones, che sono ricavati dai nostri scarti, perché in realtà tutto il nostro materiale elettrico fatto da cobalto soprattutto e altri materiali che tra l'altro noi estraiamo da lì, lo usiamo qua in Europa, poi noi li smaltiamo lì, però loro non hanno i mezzi per smaltirli. Freetown ha all'interno una delle più grandi discariche a cielo aperto urbane del mondo, è quella di Kingston, e sembra che fumi la città. Non hanno mezzi, quella adesso prima si era vista la spiaggia, vabbè, quella roba lì, cioè. Vabbè, quindi. Vabbè, roba, dai, fermetto. No, ecco, se vai a far vedere un po' di foto, magari faccio, spiego un attimo le foto, 2 minuti, così poi. Perché le foto rendono abbastanza l'idea. Scusa, non è però una cosa, tu hai detto che soprattutto per le restrizioni del Covid e così ci sono stati degli svantaggi, delle carenze incredibili. Ma nello stesso tempo pare che non ci sono controlli, che non c'è proprio possibilità di controllare per la virtualizzazione di termini le cose. Ma allora, voglio dire, se già qui. Di che cosa stiamo parlando delle restrizioni del Covid? Chi li controllava se andavano da una parte all'altra? Chi li controllava se avevano un Covid? Eppure loro cioè, sono tenuti. Cioè non è un po' un alibi questa cosa qua? È la grande domanda che ci si fa. Anche... Perché allora dici, io non ho potuto andare a comprare i semi perché ci sono le restrizioni. E va buono. Chi è che controllava se andava a vedere i semi? Ma loro, probabilmente, questo io non lo so, è una domanda che mi sono fatto anch'io, tra l'altro ho fatto anche uno scambio con alcuni rappresentanti dell'Unione Europea che ho incontrato l'ultima sera lì a Freetown, e lì è il grande dubbio, anche tra di loro, tra le istituzioni europee occidentali che ci sono lì, rappresentanti delle istituzioni, loro hanno questa percezione, nel senso che per loro sta tutto un alibi. E io non ho la risposta a questo, è probabile che per loro sia un alibi, io non credo che non sia alibi per essere povero. Cioè, no, ma io per carità, chiedevo anche per poter risolvere le cose, perché se tu poi un'altra cosa che ti volevo chiedere, dici, appunto ci sono i latifondisti che praticamente gestiscono tutto questo mercato, per cui uno deve rivolgere, il capo villaggio deve rivolgersi al latifondista per avere i semi per poterlo poi coltivare, e tra l'altro il raccolto il 60% se lo piglia lui e il resto lo devono investire gli altri, con quello che possono fare con le loro tecniche. Però a questo punto io mi chiedo, noi, chi si sta sbattendo per poter aiutare, se ho ben capito, questi villaggi, che sono due o tre villaggi di cui fa parte il progetto. Questi villaggi in che modo li si può aiutare? Comprando i semi? No, allora, ecco, questa è una bellissima domanda. Allora, comprare i semi sarebbe quell'approccio che dicevamo prima, facciamo le cose per voi, vi diamo le robe così, che poi è l'approccio che magari si aveva anche in epoca coloniale, e poi una volta che te ne vai dal paese li lasci un po' nella cappa in cui erano prima. Ci sono dei metodi, adesso poi lui è un po' più tecnico sulla questione agroforestale, sono dei metodi perché i semi possano... per non perdere di proprietà, le loro proprietà, adesso magari sto dicendo delle mega fesserie, però sono dei metodi per cui la gente possa prodursi i semi, autoprodursi i semi, loro non hanno queste tecniche, non le conoscono, non hanno la cultura, non hanno la cultura. Adesso la prima volta li compro, ma dopo... ci sono dei sistemi per fare in modo che non debbano rivolgersi sempre. Non siano dipendenti da... Esatto. Sulle sementi, in realtà le piante tipo da frutto, alberi così li fanno, hanno i loro vivai, ma perché quello è poi più replicare, puoi fare sulle sementi più da orto, erbacee, cereali, è un po' più complesso. Questi sono Prido, la donna in mezzo è una donna che da 30 anni si occupa di scolarizzare i Prido sono Sierra Leone, non c'è nessuno. Sì, sono tutti. No, sono tutti di Macheni, o di Macheni. Questo è un mercato di semi, questo qua era il cibo random per animali allevamento. Questa è Freetown, questo è il porto di Zeta, questa è la savana dentro Macchiari totalmente bruciata, questo è Kingston, uno dei posti più poveri al mondo, è considerato uno degli slum urbani più grandi, più pericolosi anche del pianeta. Io ero con della gente di brillo, sarò un bianco, biondo. Questo, come dicevamo, è il tipico negozio dell'angro dealer di provincia. Questa qua è bellissima, questa nave turca sta a circa 3 km dal porto di Freetown ed è l'energia elettrica di Freetown. Se vedete c'ha dei cavi, questo è un agro dealer che mi si diva sul certificato tutto fiero. Per vedere i fieni, ma poverino non valeva. Come dicevamo, quella nave lì è una nave turca da cui Freetown, la città di Freetown, compra l'elettricità. Un generatore stabile lì che tramite dei cavi enormi fornisce energia che va via ogni 10 minuti veramente. E la loro centrale elettrica. La loro centrale elettrica, esatto. Lì hanno fatto una rivolta popolare perché una volta hanno spostato un generatore. Tipo Paganelli, Natale Paganelli, il prete di Macchieri, mi ha detto che lui è stato minacciato dal governo perché aveva denunciato l'uccisione di 14 ribelli a Macchieri che si erano ribellati perché il governo stava spostando un generatore da Macchieri a Freetown. Quindi lì le lotte sociali sono anche di questo tipo qua, quindi sposti un generatore. Questo qua è il porto di Freetown, queste sono le poche sedi che sono riuscito a trovare appunto lì a Macchieri, questa famosa nave assurda. Questo era Stoltie dove vivevo io, dove abitavo io. Questi sono i tipici mezzi con cui lo coltivano, cioè sono delle mannaie assurde. Questo è uno dei villaggi un po' più grandi, non è quello dove stiamo andando a vivere, a lavorare noi, però dove abbiamo appoggio noi. Nella chair lady di un villaggio con 10 figli, mi pare, e lei mi dava da mangiare. Queste sono le bellissime risaie di Macchieri che provano di Malachiabana, che però non riescono a fornire abbastanza riso al villaggio. Quindi scusa, l'obiettivo è quello di farli produrre di più? Magari racconto un po' appunto nel dettaglio quello che poi è la nostra idea, no? Di voler portarla, perché sì, appunto il contesto è stato descritto, sembra parecchio drammatico, uno dice bene, da dove iniziamo? Cosa facciamo? Perché sicuramente tutti i problemi non si possono risolvere, ma forse neanche uno, perché poi, come diceva Mattia, ci sono dei problemi alla radice in quei contesti, vuoi la corruzione, quindi anche politici, eccetera, che noi con l'associazione e il progetto difficilmente andremo a anche proprio a toccare. Però c'è, ed è questa un po' una cosa proprio che anche nel mio lavoro così mi porto un po' dietro, che è un po' frustrante, perché ogni volta vai lì, fai questi progetti e tutto, però che è tutto bello, utile, eccetera, ma poi ti interfacci comunque con la dinamica paese più allargata, più complessa, e ti dici vabbè, qua o fanno una rivoluzione o comunque non serve poco a niente. Presupposto, lì chi lavora da anni in Africa, ha lavorato in Ghana, in Senegal, in Kenya, in diverse zone dell'Africa. In Ghana no. In Ghana no, in Mali, vabbè. Mali, scusate. E quindi stessa cosa. Sì, no. E quindi una cosa che proprio ho imparato, questo quando studiavo ancora, che mi ha molto, diciamo, dato ispirazione, è questo, la vita proprio, gli insegnamenti di questo Paul Freire, dal Brasile, lui, che in Brasile negli anni 70, quindi quando c'era la dittatura, eccetera, la situazione anche lì, non un Brasile di adesso, un Brasile molto più arretrato, eccetera, andava in giro sostanzialmente ad alfabetizzare la gente nei villaggi. Facendo ciò, le persone, i contadini principalmente, i figli dei contadini, hanno iniziato a leggere, hanno iniziato quindi a capire cosa gli stava succedendo attorno, a capire un po' di politica, a capire un po' quello che, e da lì sono iniziate una serie di dinamiche e processi che poi hanno portato, adesso in Brasile c'è uno dei movimenti contadini più grandi al mondo, si chiama Movimento Sem Terra, di tutti questi contadini che vanno, si prendono le terre, se le coltivano, eccetera, tutti da soli, senza bisogno di bianchi che vanno, gli danno soldi, eccetera. Questo era per dire un esempio di cosa si può fare. Secondo me una cosa veramente forte e utile è questo: trasmettere conoscenze, trasmettere input, idee, ispirazioni, per appunto migliorare le cose, e poi da lì augurarsi che, insomma, un po' piano piano col tempo le cose migliori, cioè insomma le cose crescono, si sviluppino e migliori. Quindi quello che vorremmo andare a trasmettere noi è nello specifico queste pratiche agroforestali, che sono senza pratiche agricole che prevedono la piantumazione di alberi insieme a colture, quindi vuol dire produrre ma senza causare la deforestazione, o comunque riducendola e limitandola al massimo. Perché? Perché prima ho provato a far vedere una mappa, che quella era una velocissima analisi che avevamo fatto, del territorio, cioè in mezzo c'era una comunità, una di queste comunità, e attorno tutto il territorio. Si vedeva che era proprio è una zona fortemente deforestata. A livello geografico ci troviamo più o meno al limite di quella che è la fascia di transizione fra il deserto e la savana, diciamo, no? Noi ci troviamo nella savana, poi c'è una sorta di fascia di transizione, poi inizia Sahel e poi il deserto. Vedete dove sta espandendosi il deserto verso giù. Quindi queste pratiche, da un punto di vista più tecnico ambientale, aiutano a far sviluppare un'agricoltura che ci auguriamo limiti il fenomeno di desertificazione nel lungo termine, ovviamente, su ampia scala nel lungo termine. Oltre a ciò sono tecniche che, tolta la mano d'opera, possono aumentare la produttività e riducendo i costi. Ripeto, tolta la mano d'opera, perché sono tecniche che ovviamente vanno a richiedere molta mano d'opera, cosa che lì ovviamente non scarseggia, insomma, ce n'è a sufficienza. E quindi si tratta, quello che faremo noi principalmente sarà quindi formazione, scambio, cioè Prido ha già un programma, si chiama Agroforestry Farm Field School, cioè un programma di educazione e formazione rivolto a giovani in età lavorativa su, appunto, pratiche agricole di agroforestazione e riforestazione. Quindi andremo a integrare alcune cose più tecniche specifiche che insomma abbiamo sviluppato attraverso i nostri percorsi all'interno di questo programma. Cioè, nello specifico noi ci ispireremo a queste pratiche chiamate agricoltura sintropica, che sono state sviluppate da un svizzero, ma in Brasile, appunto, per tornare, che quindi si adattano bene a un clima del genere, tropicale e subtropicale, e appunto possono tranquillamente essere fatte tutte con la mano d'opera, quindi con strumentazione semplice, eccetera. Quindi pensiamo si adattano bene a quel tipo di contesto. L'idea è dare quindi un input, un'idea, un'ispirazione, iniziare a fare un percorso formativo, prendere un ettaro per ciascuna comunità, impiantare questo sistema, farglielo vedere, auspicandosi che poi la cosa si replichi, cioè funzioni, gli sembri una buona idea e loro stessi la replichino il più possibile, anche andando poi in altri villaggi. L'idea è cominciare in 3 villaggi. In realtà, se noi zoomiamo fuori, vediamo una costellazione di villaggi in un territorio immenso. Sì, poi tra l'altro c'è anche da dire una cosa. Quando tu vai ti approcci a questo tipo di villaggi qui, bisogna stare anche molto attenti a non impattare troppo da un certo punto di vista. Banalmente, noi abbiamo anche pensato, facciamo un pozzo per sopperire al problema dell'accesso all'acqua. Se tu fai un pozzo in un villaggio, quelli si scannano. Cioè, non puoi arrivare, impattare così tanto. Pensate che quando andavo in un villaggio arrivavano dagli altri villaggi, litigavano perché dicevano con quelli di Prido, diceva perché non l'hai portato da noi, perché, capito? Ci sono tante di dinamiche da considerare. Anche quando parliamo di, giustamente Ricky prima parlava di, cosa che hai detto all'inizio? A noi piacerebbe chiaramente anche svolgere delle attività di un po' più radicali, magari di sensibilizzazione a quello che gli succede, di come subiscono certe dinamiche, ma dobbiamo considerare quando andiamo lì i primi a subire poi eventuali ripercussioni sono loro, non siamo noi gli occidentali. Noi occidentali siamo qua, eventualmente, adesso non vorrei dire, magari noi che veniamo anche da un background politico di un certo tipo, un po' più radicale, è chiaro che ci piacerebbe svolgere anche dei percorsi di sensibilizzazione per dirvi guardate che voi potete ribellarvi a questo, a quello, ma poi è come accendere una miccia che non puoi controllare. E soprattutto lì l'esercito non reprime una manifestazione, una roba con le manganellate, gli sparano le persone. Quindi cioè, sono tutte delle dinamiche molto molto delicate in cui tu devi affrontare che, in cui chiaramente non bisogna essere avventati. Quindi tutto quello che fate voi lo filtrate tramite Brido, sì, sì, cioè, che dice questo si può fare, questo non si può, esatto, fare. Certo, certo. Quello che tu adesso dicevi, se non ho capito bene, è l'embrione dello scopo vostro è creare un desiderio, almeno suggerirgli un desiderio, sapere, perché loro non sanno neanche cosa desiderare. Esatto, sì, una cosa quindi del genere. Poi tramite Brido, che sono locali, diciamo, si conoscono la loro cultura, dite guardate che voi adesso vivete così, però c'è questa possibilità con tutte le buone maniere che stai dicendo, però sì, bisogna dire che c'è anche un'altra realtà che potete vivere voi da soli. Esatto. L'idea sì, sì. Sì, tra l'altro Brido, gli operatori di Brido sono visti in maniera molto quasi reverenziale da quelli dei villaggi, perché comunque hanno effettivamente portato un avanzamento tecnologico nel loro piccolo. Ok, quindi con il giusto supporto, con i giusti mezzi, anche veramente economici, si possono fare grandi cose. Grandi cose. Si può, ecco, creare un sistema, ok? Non è qualcosa che va a tappare un problema, è qualcosa che va anche a creare appunto un sentimento, insomma, di base per far vedere quello che è. Poi questa è un'idea di base. Sopra questa, se le cose funzionano, si possono poi andare a innestare più idee, per esempio le sementi. Successivamente si potrebbe fare un intervento mirato sulle sementi, dire ok, adesso abbiamo raggiunto questa cosa, iniziamo più a sperimentare come produrci le sementi, come prodursi le sementi da sé. Vi dicevo, sugli alberi, forse perché è relativamente più semplice, va più magari a propagazione, se li fanno già da soli, hanno già i vivai, quindi su quelli bene o male si arranca. Poi vabbè, Mattia li ha visti e ha detto che non sono granché. Però a noi ci hanno inviato una bella lista di un principio di vivai. Sulle sementi invece è un po' più complesso, però una volta si crea una collettività un po' più forte su fare questi tipi di lavori, il sentimento eccetera, si può andare a innestare. La questione delle donne, quindi andare, questo è cosa ho visto in altri progetti, andare a fare magari percorsi di capacitazione specifiche sulle componenti femminili dei villaggi, su come conservare i prodotti, come commercializzare i prodotti, che quindi poi si, diciamo, riescono, diciamo, queste cose aiutano più a indirizzarle magari su avere una propria autonomia, una propria indipendenza, un proprio lavoro, eccetera. Quindi questa è una base su cui poi, cioè, col tempo si possono innestare tante altre. Diciamo che è un percorso modulabile. Sì, sì, no, assolutamente, anche perché sennò te esci di testa. I villaggi hanno le loro tecniche. Sì. Allora, i villaggi hanno un sistema di divisione delle terre un po', diciamo, abbozzato, perché poi alla fine hanno bisogno quasi tutti di lavorarsene insieme le terre, perché si riducono molto durante le stagioni, sia quella delle piogge sia quella secca, perché dell'abbondanza di piogge e dell'abbondanza di siccità, per cui si riducono tanto, quindi magari uno in quel momento non ce la praticabile, quindi alla fine la parte comune, loro hanno una divisione. Questo l'ho capito quando loro mi hanno spiegato come, siccome una primissima attività di Brido che ha fatto Brido quando è andato in questi villaggi è identificare, anzi commissionare a una persona, a un referente scelto dal villaggio, quindi tutto il villaggio che si riunisce dopo giorni sceglie una persona, che di solito è magari quello che sa l'inglese o il teacher banalmente, o è una persona magari non i più anziani perché magari non fanno fatica a muoversi, però è una persona rispettata. E commissionargli appunto la scelta di un tot di beneficiari, mi sembra che sono 30 per ogni villaggio, 30 per ogni villaggio, questi beneficiari Brido li ha presi, gli ha detto ok, allora adesso andiamo nei vostri campi, dividiamo i campi, ognuno di voi si divide il lavoro banalmente, perché poi il ricavato va più o meno a tutto il villaggio, però comunque si divide il lavoro, la competenza su un certo terreno, lasciamo uno spazio collettivo, diciamo, che si può lavorare. È un sistema che sì, a livello formale, io quando dovevo fare i questionari nell'assemblea di villaggio mi ritrovavo davanti a questi 30, però loro magari non sapevano neanche di preciso qual era il loro campo alla fine. Cioè, è un sistema un po' così. E questi 30 hanno dimostrato interesse loro? Allora, considera appunto che vedersi una cioè, interesse le nostre attività di sci. No, questo qua è il progetto. Assolutamente, loro hanno un interesse di fondo nel vedere un uomo bianco che va lì e gli dice che ci stanno facendo dei progetti lì, diciamo. gli è stato spiegato chiaramente quello che si vuole fare, quindi che è un upgrade rispetto a quello che già faceva Aprido, più che altro è anche un allargare un po' gli orizzonti, diciamo. E loro sì, ma loro è più una speranza, cioè loro comunque vivono, io i capi villaggio che ho avuto il piacere, l'enorme piacere di intervistarli, uno mi ha anche ispirato a mangiare a casa sua, e sta, cioè lui me l'ha detto, perché chiaramente parlavamo delle challenges più grandi che loro si trovano ad affrontare in villaggio, e tutti quanti dicevano uscire da, loro hanno la percezione di essere poveri, non gli manca questa, ok? Quando ti trovi a mangiare la carcassa di una scimmia morta, che potrebbe essere morta di una... sai di essere povero, cioè, ok? E quindi loro, secondo me, sono... è per questo, loro non è che hanno tanto l'entusiasmo, loro hanno la speranza, non so come dire, cioè loro ci vedono un po' come salvatori. Questa, anche questa roba qua va un po', gli va fatto capire, va un po' cambiata, cioè proprio tramite l'approccio che hai. Tu non vai lì e gli porti la roba, tu vai lì e gli dici ok raga, adesso... che fanno? Queste superfici di questi 3 ettari sono stati identificati? Sì, no, ci sono già? Sì, cioè proprio pochi giorni fa, adesso che stiamo entrando proprio più nella, anche nel tecnico della progettazione, perché dobbiamo iniziare a cercare i finanziamenti, abbiamo fatto proprio una riunione qui insieme, siamo andati lì a, mo non ho le foto, vabbè non ho le mani, quindi siamo andati a mappare questi, insieme a loro, proprio online, mappare questi terreni vicino alle comunità dove scelti da loro, cioè identificati da loro, dove si andrà, poi ovvio bisognerà andare a vederli e però intanto abbiamo... Sì, sono sorte di boschi... No, savana più mi sa. Allora ti spiego come è sviluppato, almeno i tre che ho visto, quelli che ho visto, ne ho visti più di tre, però i tre che su cui andiamo sono sviluppati in questo modo. Cioè lowland e upland, ok? Loro e il villaggio in mezzo. Questo l'hanno costruito nei decenni in modo appunto che durante la stagione secca possono coltivare giù, che dove arriva più acqua, e durante la stagione delle piogge possono coltivare su perché sotto è allagato. La parte sotto è bellissima, sembra veramente un paesaggio super boschivo, super verde, molto umido, bagnato. Infatti quando tu arrivi dici, raga, questo è un paradiso, come fate a essere così? Sopra è, vabbè, sopra non c'è... deserto, savana bruciata proprio, anche perché anche lì per esempio loro bruciano per poter coltivare, anche lì quello lì probabilmente è una questione culturale da risolvere, perché non fa bene per la savana non esiste più, la savana come io mi aspettavo di vedere una savana, purtroppo c'è un animale, capito, non è... Però sotto sembra sembra il Vietnam, sai, le design del Vietnam, bellissimo, tutto verde così di qua di là, però nonostante questo loro non riescono a sopperire a tutto. Per il debito questo, se no probabilmente ci riuscirebbero anche. Perché per larga parte dell'anno è allagato e quindi non riescono a sopperire a tutto. Comunque è un posto incredibile, la bellezza naturale è incredibile, cioè. Poi c'è da spiccicare che è una problematica proprio. In quasi tutti i paesi dell'Africa si trova, ma non solo Africa, proprio in generale contesti simili, queste popolazioni l'energia se la fanno principalmente con la legna, per cucinare, per scaldarsi neanche troppo, però cucinare o qualunque altra cosa di cui hanno bisogno di fuoco, energia, si va di legna. Questo può non sembrare, perché dici vabbè raccogli dei legnetti così, ma invece è una causa di disboscamento molto forte. Perché come dicevo, sì, un villaggio di 100 persone, però se allarghiamo sono 100, 1000 villaggi di 100 persone, quindi inizia a essere un po' di gente, tutti ogni giorno escono, tagliano, bruciano. Quindi il discorso dell'agroforestry interviene anche in quel senso, perché è un sistema che prevede anche di mettere giù alberi non solo da frutto, quindi che ti possono poi dare legna da ardere, però quantomeno li stai piantando, non stai andando a tagliare alberi che... ci sono già, e quindi è una situazione che va a creare una situazione di disboscamento molto forte, unita poi alle cinesi o che siano multinazionali che vanno lì proprio a fare logging, quindi estrazione di legname da quei punti dove sono ancora rimaste un po' delle zone di forestali, e quindi è anche questa problematica, anche, cioè, diciamo, l'idea di progettuale che vorremmo portare va incontro a diverse problematiche. Per non parlare poi vabbè, del discorso biodiversità, ecosistemi, integrità degli ecosistemi, eccetera, eccetera, rigenerazione anche delle risorse naturali, perché tra l'altro citiamo che questo progetto lo stiamo sviluppando in partnership con un'altra organizzazione, si chiama DEAFAL, che è una ONG italiana, anche loro hanno sede a Milano, fanno diversi progetti in Africa, ma anche in Italia, e loro da anni si occupano proprio di agricoltura organica rigenerativa, ovvero un tipo di agricoltura tutta basata su materiale organico, che ha lo scopo di produrre, ma a fine ciclo andare a rigenerare le risorse naturali, quindi suolo, acqua, semplicemente suolo e acqua, che si sono utilizzate. Sì, DEAFAL sono una grandissima associazione, vi invito a dare un'occhiata alle loro attività, fanno delle cose bellissime, e soprattutto anche dal punto di vista della progettazione, comunque ci stanno aiutando molto, perché hanno un portato importante. Cioè, Che inizio di questa cosa, se c'è già questa organizzazione, perché crearne come delle vostre, delle sotto organizzazioni? No, allora, perché loro non fanno progetti in Africa, in Inferiore. No, in che senso? Non ho capito. Questa qui che è sì. DEAFAL, questa situazione che già interviene su queste cose, non interviene in Sierra. Ah, no. Ah. No, stanno più nell'Africa dell'Est. Per conoscenza avevano interesse a andare lì, gli abbiamo proposto, se volete stiamo facendo questa cosa, se gli interessa, ah, okay. E gli è interessato e tutto, quindi... No, e quindi... Era no, certo. Vivano le forze. Beh, però, c'è una moltitudine comunque di realtà che fanno cose tipo... Non in Sierra Leone, in realtà in Sierra Leone è un bel po'. Sierra Leone, io in 2 settimane ho visto un bianco che era a Sicilia, l'ultimo giorno, e... sia dal punto di vista del turismo non è per niente contemplato, insomma, dai turisti del mondo, e non ha neanche, credo, le strutture, cioè, per quello che ho visto io, non ha proprio il sistema di accoglienza, insomma, come dire, che si fa, cioè, di intrattenimento, eccetera, e c'è veramente una carenza di realtà che svolge un'attività di cooperazione internazionale. Ne sono pochissime. Io sono stato in contatto col QAM. Ecco, sì, col QAM, il QAM, come dici, per l'Africa, sono un'associazione, appunto qua avevamo Cecilia che però ha dovuto andare a cena, lei è una ragazza del QAM, è appena trovata la Sierra Leone, e si occupano della copertura vaccinale in Sierra Leone. Proprio è un'associazione italiana a cui che ha vinto l'appalto che ha vinto il bando per occuparsi di questo. Lo sono medici e si occupano di questo. E sono gli unici che io ho trovato di occidentali, eccetera. Sono molto bravi, svolgono un lavoro cruciale, perché chiaramente lì i vaccinati sono pochissimi. E, però è l'unica realtà che ho incontrato. L'ultima sera sono stato invitato a una cena di bianchi, si può dire, brutto da dire, ma è effettivamente così. Cioè, sono andato dal QAM, sono andato in questo posto ai margini della città in cui sono solo bianchi, perché i bianchi stanno tra di loro, fanno molta fatica, cioè, non li trovi per strada, non ci sono, non esistono. Erano dei rappresentanti dell'Unione Europea, quasi tutti funzioni diplomatiche, che però non sto dicendo che non abbiano il polso, anzi, per esempio loro mi hanno parlato con una di loro, lei che mi ha sollevato la questione dell'alibi, così, che è una questione che in realtà va approfondita, cioè è una questione che ha un perfettamente senso. Però è molto, non credo che questo sia il momento per parlare. Senti, di questo. Sulla base di altre esperienze, le probabilità che trasferire queste conoscenze in modo da renderli inizialmente almeno meno poveri, poi sempre più dipendenti, quali probabilità di successo ha? Allora, per me che mi interessa... Sei stato colpito da quello che dicevi di quel bishop che ha detto. Sì, esatto. A me che mi interessa la storia in generale, bisogna trovare la chiave giusta, perché trasferire conoscenze senza instaurare appunto un percorso non ha troppo senso. No, facendo quello che avresti intenzione di fare. Cioè, avremmo, speriamo che abbiamo buone cioè noi speriamo che avete... No, voglio dire, ci sono state altre esperienze. Qual è la prima, la vostra esperienza? No, no, cioè... In Sierra Leone pochissime. Sì. Sierra Leone pochissime, il appunto Mr. Sanno del UNDP, proprio quando l'ho intervistato, mi ha detto che lui lavora tanto con le associazioni locali, che poi è anche, mi ha fatto un po' capire, da dopo la guerra civile è stato anche un po' il per molte persone anche la scappatoia, no? Per trovare un'attività, per trovare un lavoro, per trovare qualcosa da fare in un paese distrutto, era quello appunto di mettersi in organizzazioni, di cercare di sviluppare progetti come quello di Prido. E ce ne sono tantissimi, il governo non riesce a finanziarli tutti chiaramente, però noi siamo veramente, ecco, la Sierra Leone è un posto molto poco battuto, ma anche perché, ripeto, è molto difficile scontrarsi con una realtà così disarmante, ti mette di fronte delle cose e dici, è veramente difficile affrontarle, ma di base c'è una corruzione, i ragazzi di Prido, non so quanto, ogni due secondi per loro qualsiasi problema era c'è corruzione, non si riescono a fare le cose, c'è corruzione, non si riesce a portare avanti un percorso. Questa è una cosa che poi era anche il motivo scatenante della guerra civile, la corruzione. Per cui è sempre lì un po' così, diciamo, solo che loro sono traumatizzati, giustamente. Cioè. Questi ragazzi, queste persone di Prido, all'interno della loro equipe, del loro staff, hanno delle cure come la no. Cioè, sì, magari non così, sì, no, cioè allora. Sarebbe importante che loro stessi costruissero. Sì. Ma ragazzi dei vari villaggi, certo. A fare il lavoro tuo, quindi sì, come sì. Tu dici bisogna avere un atto di come hai detto, bisogna stare attenti, non impattare troppo, della loro cultura eccetera. Di Develò, che avete detto che c'è stato un progetto in cui avete. Sì, no, quello era magari Pietro. Perché qua abbiamo anche il piacere di averlo indietro, esatto. che magari può dirci due parole su questo. Sì, magari sì. Su Develò, allora, in generale. No, stavamo parlando di. Aveva chiesto di Macheni, la ragazza faceva il dottorato lì. Che... Non era un master. Ok, era sì. Un master. Sì, dunque, allora, l'esperienza di Develò pregressa con Sierra Leone è questo piccolo progetto di crowdfunding fatto nel 2014 per facilitare la frequenza di una delle studentesse che si era iscritta alla facoltà di agraria di Macheni, che a sua volta era stata fondata con l'aiuto della facoltà di agraria di Milano, dove io lavoro, tra il 2010 e il 2014 sostanzialmente è stato lanciato questo progetto di fondare una facoltà di agraria a Macheni. L'Ebola del 2014 aveva sostanzialmente stroncato sul nascere il progetto, perché era tipo il secondo anno di apertura dell'università e ovviamente non c'erano stati più iscritti. Tra l'altro era comunque un'università, diciamo, un po' costosa, non era un'università statale, era un'università privata che costava, però aveva un senso visto che comunque insegnava a coltivare la terra in una maniera un pochino più sostenibile. Comunque Develò aveva fatto questa piccola operazione proprio durante il periodo di Ebola per dire ok, quando finirà questo momento di crisi almeno una studentessa proviamo ad aiutarla a frequentare. Così era andato, il progetto di crowdfunding, comunque avevamo raccolto pochi soldi, in realtà 2.400 euro che gli pagavano l'80% mi sembra. 2.400 euro per la Sierra Leone. Sì, che però era, come dire, era l'80% se non sbaglio del costo del triennio di università, quindi comunque non è che fosse una cosa sensazionale, però sicuramente era stata un'esperienza con un senso. E questo è quello che, diciamo, Develò aveva in passato con un po' di Develò ne hai parlato all'inizio. Sì. Poi semmai alla fine. Io una cosa, sentendo i discorsi che avete fatto e le domande soprattutto che sono emerse, ci tengo ad aggiungere una cosa. Una particolarità dei progetti che propongono l'approccio agroecologico è quella di non solo cercare di, come dire, che è una cosa giusta di per sé, condividere conoscenze, ma l'agroecologia è un modo di intendere la produzione di cibo, in un modo molto diverso, che non è semplicisticamente, come dire, un pensiero finalizzato, io faccio una serie di azioni per produrre cibo. L'agroecologia quindi cambia l'agricoltura in questo senso, l'agricoltura è questo, no? Siamo d'accordo, l'agricoltura è produrre cibo, fare delle operazioni in campo con delle piante, con degli animali per produrre cibo, questa è la definizione più standard di agricoltura. L'agroecologia cosa fa? Inserisce, come dire, cambia un pochino il posto dell'essere umano in questa catena e soprattutto trasforma una catena lineare, io faccio delle determinate cose per avere un determinato risultato, in una visione circolare, no? Della realtà, per cui l'aneddoto classico per spiegare l'agroecologia è il momento in cui l'uomo che pensa di nutrire la pianta con dei fertilizzanti perché così la pianta mi restituisce del cibo, quindi è un rapporto bionivoco lineare, ha già un rapporto con tre entità. Io mi prendo cura del suolo che per un suo sistema interno, processo interno, aumenta le capacità di sostenere la crescita delle piante che alla fine mi daranno un risultato. Abbiamo soltanto aggiunto un terzo elemento, no, il suolo, ma abbiamo cambiato completamente il ruolo dell'essere umano in questo ciclo, perché non è più l'uomo che agisce per un fine diretto, ma già un uomo che si mette in relazione con un sistema più complesso per ottenere delle esternalità da questo sistema, tra cui quella per noi fondamentale, il cibo. I progetti di agroecologia questo fanno, cioè oltre a, come mi viene da dire, come tutti i progetti di cooperazione, cercare di aiutare, e già è stata distinta, no, un'ottica più assistenziale all'ottica già migliore dal mio punto di vista, cioè ti insegno a pescare, non ti porto il pesce ma ti insegno a pescare, che è già un passaggio migliore ma che ancora mi lascia perplesso perché c'è ancora questo discorso di appunto diretta finalità, io ti insegno a fare qualcosa per un risultato, a un cercare di portare un'autocritica, un'autoriflessione sul nostro ruolo di esseri umani all'interno di un ecosistema e di come possiamo con le nostre azioni modificare il nostro comportamento, il nostro modo di vedere anche le cose, ottenere dei risultati forse diversi, no? In termini ambientali, sociali e economici, nel senso economico anche di mangiare. Quindi questa secondo me è un po' la particolarità di un progetto come questo che si sta cercando di mettere in piedi in Sierra Leone, come altri. Vi invito poi magari a prendere questi due materiali che sono riuscito a portare, sono i due progetti pregressi di Develo, in realtà la prima è una semplice collaborazione all'interno dell'Expo 2015 su un progetto che seguivo io per l'Università di Milano, in cui però Develo era entrata facendo dei video sostanzialmente a Dakar, idroponica semplificata, agricoltura urbana, e l'altro invece è il progetto che ha visto per più tempo impegnata a Develo ad Haiti per 3 anni, forse 4 in totale, sul controllo delle aflatossine nelle filiere dei cereali. Le aflatossine sono delle tossine che si creano in tutti i cereali del mondo e non solo i cereali, che ci mangiamo abitualmente, ci sono dei limiti di legge che, come dire, se si sta sotto quelli non diventa un problema alimentare grave, ma in paesi dove non c'è questo controllo è un problema serissimo. E questo per dire che un po' una caratteristica di Devole è questa, la volontà di mettere questo approccio nei progetti di cooperazione. DEAFAL, l'organizzazione che collabora con noi su questo progetto in Sierra Leone, è assolutamente portatrice dello stesso punto di vista, dello stesso approccio. E questa, se posso, appunto, mi veniva da sottolineare questa particolarità, no, rispetto a, perché anche rispetto, no, alla, voglio dire, quando ho quasi chiuso prima Mattia dicendo l'incontro con Padre Nataglio, che dal nostro punto di vista è stata la figura che ha montato, no, la facoltà di agraria lì a Makeni con la collaborazione con la nostra facoltà qui a Milano, e tuttora lì la sua visione iperrealistica e ipercinica, però, no, che è reale, non c'è niente da dire che non è nulla di quello che ti ha detto è falso, no, rischia, come dire, di però perdere di vista la possibilità di, come dire, immaginare sempre dell'altro fuori dal seminato, no? E quindi nel momento in cui si va a fare l'ennesimo progetto di cooperazione, perché la Sierra Leone, come Haiti, come la Palestina, no? Sono posti in cui la cooperazione è inflazionata come minimo, cioè sono quanti anni che vengono fatti progetti di sviluppo eppure la situazione è... però questo nuovo spirito di portare queste visioni, questo proprio, come dire, cercare di portare delle posizioni mentali diverse dallo standard, questa dal mio punto di vista personale è la cosa che bisogna fare in cooperazione internazionale e in generale anche in Italia, quindi anche nello sviluppo dei nostri territori, delle nostre reti. E questa è un po' la cosa che mi piace sottolineare, soprattutto per superare anche un po' quella possibile frustrazione che può venire da questo mondo che sembra immodificabile, ma che possiamo forse continuare a cercare di modificare. Che a noi verrà. Esatto, questo è quanto. Io volevo sapere, ma la ragazza dopo l'Ebola ha continuato la scuola? Allora no, non ha continuato. Non ha continuato, giusto per dire appunto come queste cose, per motivi di famiglia sostanzialmente. Il racconto è stato ovviamente non troppo allegro, nel senso che lì appunto alla fine dell'emergenza di Ebola abbiamo cercato di ristabilire un po' i contatti che si erano interrotti durante l'emergenza, e il racconto è stato qui, allora tipo 20% degli studenti è morto, l'80% restante hanno tutti perso almeno un familiare, quindi ovviamente la riorganizzazione economica della famiglia ha determinato dei cambiamenti di rotta, no? E quindi la quella che era stata magari scelta all'interno della famiglia per diventare la laureata ha dovuto andare a fare altro, e quindi no, quel percorso lì si è interrotto. E questo progetto in realtà LIF, dal nostro punto di vista, potrebbe essere anche come un modo di ricominciare qualcosa che si è interrotto, però non è la nostra volontà lasciarlo cadere. La studentessa, se non sbaglio, non sei riuscito a vederla, no? No, non sono riuscito a vederla. Lui si ricordava, molto bene, e anche lui devo dire che con grande rammarico ha detto che non sarà più potuto andare avanti. In generale, quando sono andato in università, l'impressione che ho avuto è che fosse veramente vuota, cioè non c'erano lezioni in quei giorni, e c'era poca gente che poteva farci. Ma mancano anche i docenti, secondo voi mancano gli iscritti? Sì, sì, direi che io non l'ho vista di recente, appunto, la sensazione che posso traslare da altri contesti universitari che ho conosciuto, per esempio in Senegal o in Congo, nel paese dove ho lavorato, è che sia, come dire, il livello, la disponibilità, quindi i docenti, il livello anche dei docenti, sia molto diverso a quello a cui siamo abituati noi. Lasciamo perdere il livello, perché voglio dire, il livello chi se ne frega anche. La quantità non è sufficiente. Si genera sempre una, come dire, se l'università diventa accessibile si creano quelle situazioni come quelle che ho visto a Dakar, di aule sovraffollate, e comunque poi la qualità dell'insegnamento scade tantissimo, né per colpa del docente né per colpa degli studenti ovviamente, ma per come è organizzato il sistema. In particolare gli Amacheni, io so che la facoltà di Agrardia era pressoché chiusa dopo Ebola, nel senso che non essendo riuscito a entrare a regime, no? Perché proprio il secondo o terzo anno era di apertura, non è poi andata avanti semplicemente, quindi non so neanche dirti se quest'anno erano aperte le iscrizioni alla facoltà di agraria, credo di no sinceramente. Allora, intanto bisogna dire che l'Ebola per loro è stato molto peggio del Covid, cioè l'Ebola loro anche lì è un altro grandissimo trauma, quindi cioè le ripercussioni che hanno avuto su questi servizi in generale, pubblici, privati, che siano, sono stati molto più grossi di quelli che almeno di quelli che avevo io la percezione da qua. Io ho intervistato un professore di geografia, perché chiaramente ci dovevamo parlare di quelle tematiche lì, però lui non stava lavorando, nell'università non stava lavorando. Era appena diventato professore, abbiamo potuto parlare di tutte le linee, soprattutto di deforestazione, però in generale lui non stava lavorando in quel periodo. Non mi ha detto perché, viveva anche in un posto bello al core, come si suol dire, cioè non era sicuramente uno che se la passava troppo bene, diciamo, per farvi capire un po' lo stato sociale del professore medio. Ma pagato lo stato? Ma no, essendo per in questo caso penso di no se era legato a Macheni, quindi credo di no. I non iscritti? Sì. Ah, quindi no, se non lavorano, se non ci sono proprio gli iscritti. Sì. Ma le scuole inferiori invece? Allora, ci sono poi tutte scuole cattoliche, io parlo di Macheni, Macheni che è una cittadina piccola, cioè nel senso non c'è acqua per dentro, cioè c'è un tipo paio d'ore al giorno, però per dirvi, due strade ci sono, ecco, che quelli è anche tanta roba. Io sono stato, perché ho incontrato dei ragazzini che stavano andando gli esami in quei giorni lì, sono stato in una classe di scuola pubblica, e c'erano ce ne sono di bambini con la scuola. La gente comunque, cioè l'età media, cioè come si dice, l'età massima della gente è 50 anni. Cioè l'aspettativa. Scusatemi, madonna mia, l'aspettativa di vita è 50 anni, sono tanti bambini, tantissimi. Anche nei villaggi, tantissimi bambini. Dove, come dicevi, le scuole sono dei cattolici, magari un po' sovvenzionate dalla... No, sono le cattolici in senso pubbliche, ma cattoliche, pubbliche in senso dei magari missionari. Adesso non so bene le radici chi abbia fondato quelle scuole lì, tutte sono a St. James, per dire, classiche scuole come quelle che si trovano anche nel resto dell'Africa, St. James, la... non so, così... scuole così che hanno impronta molto cattolica, ma lì sono molto cattolici. C'è un insegnante di questi ragazzini che ho incontrato in cui ho giocato a calcio, che ancora adesso mi manda i messaggi con le preghiere. Sono molto cattolici. Dice Ma io magari volevo aggiungere rispetto alla questione su come generare un impatto che si poneva prima. Come è andata via? Proprio spiegando un po' questa cosa, cioè, perché abbiamo scelto la Sierra Leone, no? Non solo perché sono mille problemi, quindi è urgente, quindi c'è necessità, quello sicuramente cioè, ci sono dei problemi a cui si può rispondere, quindi si possono fare i progetti, ma dall'altra parte perché abbiamo riscontrato un partner, cioè un partner, un'organizzazione locale che ci ha dato almeno all'inizio l'impressione di effettivamente essere attiva localmente, di fare quello che dice di fare, insomma di essere relativamente affidabile. Poi Mattia è andato anche a conoscerli, più o meno ci avevamo azzeccato, poi vabbè, ovviamente quando vedi le cose poi ti rendi conto che magari ci sono delle carenze, delle problematiche, però più o meno abbiamo riscontrato appunto l'esistenza di questa realtà locale, perché appunto per dare continuità la nostra priorità era, da parte nostra ovviamente sarà difficile dare continuità perché non saremmo lì presenti con continuità, quindi averci una realtà locale che oltretutto ha dei programmi già suoi che implementa, quindi in cui andresti a innestarti eccetera, ti permette di garantire che le cose vengano portate avanti. La finalità della formazione del progetto è sia rivolta ai villaggi, alle comunità, ma soprattutto, anzi penso io, a quelli che saranno i quattro formatori locali che andranno a formarsi per poi, cioè, integrare queste cose all'interno dei loro programmi, delle loro attività. Formatori di Prido, appunto, personale di Prido che parteciperanno, che ci faranno da intermediari, che penso io in realtà sarà su loro il focus principale, per fare in modo che poi da loro si crei più, cioè faccia un po' effetto risonanza, no? Questa è un po' l'idea. Voi o alcuni di voi lì a formare questi quattro, sì. No, formare anche già 30 beneficiari selezionati per ogni comunità, anche. Però cioè, secondo me lo scopo sarà, cioè la cosa secondo me più importante è che questi ipotetici quattro formatori acquisiscano bene queste competenze in modo che poi possano, diciamo, portare avanti abbastanza in autonomia la cosa. Il progetto avrà la durata di un anno, l'idea. Il progetto inizierà comunque a maggio prossimo, perché noi abbiamo il problema che per poter fare anche in pratica, per poter coltivare lì devi iniziare a maggio, quando inizia la stagione delle piogge, perché sennò è impossibile proprio letteralmente, come la roccia. E quindi dobbiamo aspettare appunto maggio, perché poi da maggio a ottobre c'è la stagione delle piogge. Quindi abbiamo tempo anche per strutturare bene e fare bene. Sì, perché appunto, vabbè, poi volevo solo commentare questa foto, sostanzialmente, per dire, cioè dove vedete quelle aree in rosso, si vedono, c'è una copertura forestale, ma si vede che è fatta proprio a scacchiera. Adesso qua non si vede, però se si va un attimo sul computer si vede che è fatta a scacchiera. Questi sono proprio progetti di riforestazione di Prido, Cioè, solo per dire, appunto, c'è un po' di evidenza che questi in loco ci sono, qualcosa fanno, e quindi insomma abbiamo un attimo un minimo di garanzia che non stiamo andando un mese in un villaggio e poi arrivederci. Perché... No, poi Prido ha anche, come dicevo prima, questa grandissima funzione che sono molto presenti, anche banalmente si fanno vedere, non so come dire, quasi una funzione non tecnica, una funzione sociale che va un po' oltre. I ragazzi, due dei ragazzi di Prido, adesso vabbè, due dei ragazzi più giovani sono di quelle zone lì, proprio sono di quelle, arrivano proprio da lì, quindi cioè sono proprio ragazzi così. Credo che esatto, cioè c'è un po', come diceva prima Daria, cioè è il filtro che noi abbiamo comunque bisogno, cioè o non, anche questo bisogna dirlo, anche perché per accedere a alcuni bandi lì devono chiaramente partecipare a associazioni in loco, cioè questa è una cosa che funziona in tutto il mondo, cioè per accedere ai bandi dell'UNDP, i finanziamenti dell'ufficio della Sierra Leone, lì partecipa a un'associazione locale, giustamente, cioè, però... Ok, noi ci tenevo a dire soltanto una cosa, una conclusione, la mia conclusione un po'... No, niente, allora, quello che dalla mia sparatoria, di quello che è stata la mia esperienza, di quello che ho visto da profano delle tecniche agroecologiche e da reporter, nel senso... Quello che ho visto è stato comunque, cioè la percezione che ho avuto io, che ha rafforzato un'idea che avevo, una posizione che avevo, che è quella che in un mondo come quello di adesso, globalizzato, ok, questo possiamo dirlo, un mondo in cui anche in cui si è accumulato tanto nelle mani di pochi, possiamo dirlo tranquillamente, in un mondo di questo tipo qua, tante delle cose che succedono, tante delle cose che facciamo anche noi nel quotidiano qua in Europa, negli Stati Uniti, ricadono sulle persone che vivono in questi posti o perlomeno, siccome si espandono a livello globale, loro non hanno i mezzi per affrontarle. Banalmente, adesso potrei fare l'esempio in generale anche le guerre, per esempio. Loro per esempio lì hanno un grosso problema adesso con la benzina, col gasolio, eccetera, che non è strettamente collegato alla guerra in Ucraina, perché loro non è vero che si è alzato il prezzo per loro, però il governo ha usato questa scusa per alzare i prezzi e guadagnare di più. E lì se non hai la benzina da mettere nella moto non puoi lavorare, perché non puoi raggiungere le distanze, eccetera. Quindi noi qua possiamo resistere a certe cose, loro non possono. Veramente i mezzi che abbiamo noi per affrontare una pandemia, loro lì non ce l'hanno. I mezzi che abbiamo noi per affrontare l'inquinamento e il surriscaldamento globale, loro lì non ce li hanno. E la gente lì muore per i cambiamenti climatici, per inondazioni. 4 anni fa in Freetown sono morte 400 persone per una frana. Dovuta, adesso l'ho scritto a caso, comunque dovuto a un stravolgimento delle correnti, l'hanno studiato chiaramente, 400 persone così, per un temporale improvviso che di là di certo non si registra, eccetera, così. Quindi quello che noi qua possiamo sopportare, perché abbiamo i mezzi per farlo, loro lì non possono farlo perché non hanno i mezzi per farlo. E perché non hanno i mezzi per farlo? In realtà l'Africa, come si dice spesso, sembra quasi retorico e banale, è una delle zone più ricche del globo a livello di risorse minerali e naturali. Loro non possono accederci, anzi ne sono stati proprio espropriati per secoli, e quindi in generale questa è, secondo me, anche un po' una roba da tenere sempre a mente, non soltanto quando si fanno questi progetti, ma anche quando si vive qua. Cioè credo che sia abbastanza... E quindi è una cosa che cioè, per una persona che va lì a fare un progetto è una roba che ti viene, cioè che lo vedi e un po' ti senti anche avvisato. Sì, infatti, magari per concludere possiamo dire, la finalità di questo progetto non è, che ci siamo detti fin dall'inizio, da quando abbiamo iniziato proprio a chiacchierarne così, non è solo quella di andare lì, fare un progetto, generare un impatto, eccetera, ma è anche poi di restituire qua quella che può essere un'inchiesta, quello che può essere dall'esperienza all'inchiesta proprio di quello che si va a scoprire, perché l'idea è proprio tenere insieme questi due attività, diciamo, fare generare un impatto lì e poi raccogliere informazioni, fare proprio un lavoro e cercare di riportarlo qui per sorta, ci auspichiamo si generi un doppio impatto, una sensibilizzazione qui. Per beneficiare di questi progetti possiamo dire che ci sono anche le persone che beneficeranno della sensibilizzazione o comunque delle ricerche che facciamo, cioè su cui puntiamo. Va bene, basta, adesso dai, sì. Vediamo. Grazie. Questi materiali qui. Prossima volta ci prenderà Johnny, che è il terzo del gruppo, che è stato arrivato di tanto a... Sì. Tu li avete presi alla festa di Agraria, l'altra occasione. Questo è il progetto da Iti e l'altro è alla Cava. Ciao. Piacere di rivederti. Sì, vedermi. Però non so il tuo nome. Ciao. Ehi, come va? No. Lasci che piano piano arrivano le